con questo ritmo, ma credo che proprio il vantaggio di una settimana così derivi da questa impostazione, almeno è la mia opinione, mai e mai. Ecco, la relazione della professoressa Zari ha il titolo appunto gli ordini religiosi tra 4 e 500, il punto sulla situazione degli studi in Italia, le prospettive di Venezia. La vastità del tema, le mie specifiche competenze che, come vi ho già detto, riguardano soprattutto le istituzioni religiose femminili. Ecco, se venite avanti, perché vedo che la voce, mi hanno detto, per me anche quando si sentiva poco l'altro giorno, non so se riuscite a sentire. Non funziona questo microfono? No, è il registratore, dovrebbe essere anche un po' microfono, ma cioè, professor Sido, come si dice? Abbiamo due nuovi soci. Ecco, il professor Sido l'abbiamo già annunciato lunedì, il professor Mertens, è giusto, e il professor Mertens è qui con noi e per la relazione poi oggi pomeriggio, insomma, ecco, è arrivato. Quindi siamo direi al completo di tutte le... Ecco, il dottor Hack era malato nei giorni scorsi, è arrivato ed è qui con noi. Chiedo scusa di questo, grazie, perché avevo dimenticato. Ricomincio? Sì. Dunque, si sente? Se parlo così si sente? Sì. Allora, ripeto che la vastità del tema e le mie specifiche competenze, che come già avevo detto, riguardano soprattutto le istituzioni religiose femminili, non mi consentono che di indicare alcuni punti dell'evoluzione degli ordini religiosi fra 4 e 500 che a mio parere andrebbero sviluppati e approfonditi, cogliendo alcune delle stimolanti proposte che ci vengono dagli studi più recenti sulla città, sullo sviluppo dello Stato territoriale e sul potere e l'ideologia del principe, che hanno già indicato la stretta connessione tra società civile e società religiosa, sia a livello di strutture ecclesiastiche, sia a livello di credenze e di devozione. Rilevare alcune connessioni tra evoluzione strutturale degli ordini e implicazioni della società e dello Stato, cittadino o regionale, è certamente un'ottica parziale rispetto alla problematica che il tema comporterebbe. Ma consente, mi pare, in linea con quanto ci siamo detti in questi giorni, di evidenziare un'altra delle strutture della Chiesa così strettamente connesse con la politica e la società da non poter essere considerate in un'ottica puramente intraecclesiale, come sottintendevano gli storici, anche grandi, che hanno descritto gli ordini religiosi prima della Riforma, ora mettendone in evidenza il rinnovamento, ora stigmatizzandone gli abusi e cercandone le cause. Così, se Renaud d'Einbar de la Tour Bataillon ci hanno dato per primi dei quadri complessivi degli ordini religiosi prima della Riforma, Jedin indicava in un saggio famoso del 1936, sul Folge Fichte del Regularen Reform, esclusivamente nella politica ambigua del papato, ora di appoggio alla riforma, ora di deroghe e dispense tramite i privilegi e le concessioni della penitenziaria, il motivo della mancata riforma degli ordini religiosi. In un'ottica esclusivamente intraecclesiale restano ancora quegli studi che indicano nell'osservanza un fenomeno prevalentemente interno agli ordini religiosi, o da intendersi come espressione del rinnovamento della Chiesa nel secolo XV, come fanno alcuni storici cattolici e da ultimo Foyce in uno studio sull'osservanza che peraltro è utile dal punto di vista informativo ma che appunto ha questo, questa interpretazione di fondo esclusivamente intraecclesiale. Insomma. e implicitamente tutti i numerosi esponenti della erudizione ecclesiastica che hanno fornito numerosi contributi specifici sui singoli ordini religiosi nelle riviste specializzate. Su una linea feconda, aperta a cogliere le implicazioni politiche ed economico-sociali connesse con la presenza degli ordini religiosi nelle città, sono gli studi prodotti sulla scia delle indicazioni proposte dall'inchiesta di Le Goff su apostolato mendicante e fatto urbano. Ma queste ricerche, avviate per il secolo XIII e XIV, mancano completamente per il Quattrocento e si occupano appunto esclusivamente dei mendicanti, e i mendicanti non esauriscono ovviamente il problema degli ordini religiosi nel loro complesso, che vedono nel progressivo indebolimento dell'ordine benedettino e delle congregazioni della medesima regola un altro dei punti nodali delle trasformazioni che avvengono all'interno degli ordini religiosi nel Quattrocento. La mancanza di studi significativi metodologicamente, la quantità di problemi connessi con lo sviluppo e l'evoluzione dei singoli ordini mi spingono dunque a indicare alcuni punti che mi pare interessante nucleare per poter ulteriormente proseguire le indagini. Non c'è dubbio che, indipendentemente dal problema delle origini della riforma, l'elemento più rilevante che caratterizza l'evoluzione degli ordini religiosi fra 400 e 500 è costituito dal fenomeno delle osservanze e dai mutamenti strutturali che le accompagnano. Il processo, iniziatosi per molti ordini alla fine del secolo XIV, ma consolidatosi e stabilitosi con l'approvazione canonica intorno alla metà del secolo XV, raggiunge il proprio assestamento nei primi decenni del Cinquecento e si conclude soltanto con il Concilio Tridentino. A questa data riceverà il proprio assetto definitivo specialmente il processo di riordinamento degli ordini religiosi femminili, iniziato successivamente a quello maschile e spesso, come si vedrà, per vie totalmente diverse. Per le strutture degli ordini religiosi, quindi, la cronologia proposta dal tema del convegno va ulteriormente dilatata, sia nel suo termine iniziale, primo 400, sia nel suo termine finale, 1430 circa per gli ordini maschili, 1463, cioè Concilio di Trento, per quelli 500, sì. 1500. Grazie. Il fenomeno della... Per un secolo si può sempre sbagliare, è difficile solo per un anno, ma per il secolo. Va bene, secolo. Il fenomeno dell'osservanza come espressione di riforma strutturale dei conventi, pur partendo spesso da iniziative individuali o interne agli ordini, è però costantemente appoggiato dalle magistrature cittadine o dal principe e risponde quindi a un'esigenza che lo Stato avverte come politicamente rilevante, vuoi per motivi di ordine e disciplina, vuoi per motivi economici o politici che occorrerà approfondire. Certo, l'osservanza non è un fatto che si propaga spontaneamente, spesso ha bisogno delle armi per imporsi. Una geografia del sorgere e del propagarsi delle osservanze dei principali ordini religiosi confermerà come il fenomeno interessi prioritariamente gli stati cittadini o regionali dell'Italia centro-settentrionale, mentre occorrerà ricordare che se per l'ordine benedettino la struttura congregazionale di Santa Giustina, che si costituisce appunto nel secolo XV, è fenomeno del tutto nuovo, e si pone come elemento centralizzatore e di coordinamento territoriale di entità prima completamente indipendenti, la struttura congregazionale degli ordini mendicanti si sovrappone invece ad una precedente istituzione centralizzata e suddivisa sul territorio in circoscrizioni definite, che vengono così affiancate da nuove entità, le congregazioni appunto, da queste disgiunte. Si analizzeranno quindi dal punto di vista strutturale e quantitativo, secondo i dati a nostra disposizione, i principali ordini mendicanti allo scopo di indicare sommariamente su quale realtà istituzionale opera la riforma osservante e in che misura, sempre quantitativamente, vi incide. Qui mi scuso, sarò un po' noiosa. Avevo presentato alcune carte che non sono originali, cioè non sono una costruzione che io ho fatto, ma mi sono servita di quelle cose che erano già esistenti per avere appunto un'idea dello sviluppo dell'organizzazione territoriale di questi ordini. Ecco, per questa prima carta è stata ricavata da una, rimpicciolendola quindi probabilmente non si vede più niente, ma da una carta che era stata preparata da Luigi Pellegrini in un saggio, in uno studio che riguarda l'insediamento dell'ordine francescano e nel... sì, è quello... l'ho rimpicciolita perché era troppo grande, ecco, e ho ricalcato in qualche modo le province domenicane. Poi questi puntini verdi invece costituiscono le sedi delle osservanze, delle congregazioni osservanti, secondo un discorso appunto che adesso vedrò, vi farò. Ecco. Quindi riguardo l'ordine domenicano, francescano, questa carta riguarda l'ordine francescano, le province dell'ordine francescano. Sì. I punti verdi sono le congregazioni osservanti che si fonderanno appunto successivamente nel secolo XV e che per l'ordine francescano hanno una ripetono la ripartizione territoriale delle province, cioè si costituisce una osservanza in ogni provincia. Poi questa è un'altra cartina che invece riguarda l'ordine agostiniano. Non potevo farle insieme perché erano diverse. Anche questa è una cartina che non ho costruito io, è pubblicata ed è pubblicata nel dizionario degli istituti di perfezione. Dal punto di vista geografico non è molto bella, insomma, però ho confrontato sulle fonti e mi pare corretta dal punto di vista della... dal punto di vista appunto della strutturazione delle singole province e degli ordini. Qui è immediata, sì, credo. Questa potrà girare di più perché ne ho fatte più. Tra osservanti e conventuali. Sì. Osservanti sono i punti in rosso. Sì, qui posso farne passare più cose, se vi interessa, ma comunque. Magari mi interessa niente. No, due. Ecco, anche qui vedrete che mentre la carta di base su cui ho lavorato comprendeva il numero di tutti i conventi al 1650, quindi ce n'è un numero maggiore rispetto a quelli che poi io ho segnato, ecco, ho evidenziato quelli presenti fino al 1520, quindi nel secolo XV fino al 1520, evidenziandoli con un triangolino oppure con un punto rosso. Ecco, il triangolino indica la presenza di un convento ma non riformato, il punto rosso il convento riformato. Sì. Ecco, allora appunto riassumerei brevemente quelle cose che voi vedete in carta, cioè la distribuzione delle province dell'ordine francescano, ne abbiamo una buona rappresentazione cartografica nello studio di Filippini che vi ho detto prima e che analizza gli insediamenti francescani nel secolo XIII attraverso il provinciale Ordinis Fratrum Minorum databile al 1234 e oltre ad indicare le province indica anche le circoscrizioni territoriali minori, cioè le custodie. Ecco, le province risultano in tutto 14, mentre appunto assai più numerose sono le custodie che comprendono un gruppo minore di conventi dai 4 ai 12 normalmente. In tutto appunto il Pellegrini conta già al XIII secolo ben 544 insediamenti francescani e 23 nella Sicilia, che calcola appunto separatamente. Quindi appunto un impianto molto, molto diffuso, che, appunto, di cui poi lui nello studio traccia anche delle ipotesi di diffusione, eccetera. Ecco, e quindi come si vede paiono distribuite su tutto il territorio secondo una divisione che rispecchia zone geografiche omogenee di tipo regionale che rimangono invariate fino al secolo XVI. Per l'ordine agostiniano, come ancora appunto potete avere visto dall'altra carta, in analogia con l'ordine francescano, anche l'ordine agostiniano si suddivide fin dal secolo XIII in province piuttosto articolate, che tuttavia non raggiungono l'impianto capillare dell'ordine francescano. Vi sono infatti 6 province soltanto nel secolo XIII, aumenteranno a 11 nella prima metà del secolo XIV, anche ovviamente in considerazione di nuove fondazioni religiose, quindi di espansione dell'ordine, giungeranno a 13 fra il XIV e il XVI secolo, con la creazione di 2 nuove province, una nel 1470, la provincia di Calabria, un'altra nel degli Abruzzi, un'altra nel 1530, la provincia di Calabria. Quindi anche per l'ordine agostiniano, come appunto vedete, abbiamo un impianto piuttosto articolato. Diverso invece è l'ordine domenicano, dove le circoscrizioni territoriali sono molto ampie. Inizialmente esistono 2 sole province dell'ordine domenicano, la Lombarda e la Romana, che nel corso del 300 e 400 si suddividono in 5 province, che restano tuttavia raggruppamenti di conventi superregionali del tutto avulsi, tranne la Sicilia e il Regno, da realtà geografiche o statali. Alla maggiore articolazione in province dei 3 ordini menzionati corrisponde anche un impianto conventuale assai più numeroso nei francescani e negli agostiniani. Qui mi scuso se do un po' i numeri, forse vi distrarrete, ma mi è venuto così. Dunque, le serie che possediamo non sempre cronologicamente omogenee ci forniscono questi dati. Nel 1360 l'ordine domenicano possiede 127 conventi maschili e 50 femminili, suddivisi in 4 province. Pochi anni dopo, cioè nel 1538, l'ordine francescano ha invece 617 conventi divisi in 14 province. È la serie ragusina. Conventi maschili o... 1385. Ho detto 1500. Scusate, questa volta sono 2 secoli. Scusa. Allora ripeto, 1384. E qui non c'è distinzione fra conventi maschili o femminili. 617 in tutto per i francescani. 617 in tutto per i francescani distribuiti in 14 province. E invece un secolo dopo, 1460, l'ordine agostiniano ha 346 conventi, anche questi suddivisi in 11 province. Qui sono esclusi gli osservanti, che come vedremo almeno un secolo dopo saranno circa un centinaio, ma sono già abbastanza diffusi alla metà del 400. E appunto un'altra serie che possediamo un secolo dopo, cioè per gli agostiniani intorno al 1530-1550, abbiamo 333 conventuali, conventi cioè non riformati, e invece 179 conventi osservanti distribuiti nelle congregazioni. Sì. Quindi, nonostante le province domenicane abbracino delle circoscrizioni territoriali molto alte, il più ridotto numero dei conventi fa sì che alle date indicate le province domenicane e francescane governino in media lo stesso numero di conventi, cioè alle date 1360-1384, tanto le province francescane quanto le province domenicane governano in media 44 conventi. Né si deve credere che nel secolo XV i conventi degli ordini mendicanti, esclusi forse quelli delle città maggiori, comprendano un grande numero di religiosi. Significativi sono i dati della provincia romana dell'ordine agostiniano nel 1443. Ecco, a me questo dato ha un po' sorpreso, appunto, per la scarsità di numero. Però è anche vero che si tratta di un di una provincia abbastanza ampia, ma appunto in una zona abbastanza povera, insomma, e con un impianto antico, probabilmente anche di piccoli conventi, romitori, eccetera, no? Infatti, al 1443 vi sono 99 religiosi distribuiti in 21 conventi, quindi in media 4 o 5 religiosi per ogni convento, ma soltanto due conventi, Viterbo e Acqua Pendente, superano i 10 religiosi, mentre ce ne sono ben 3 che hanno un solo religioso e un novizio, quindi comunità estremamente piccole, frazionate. E appunto sul problema del numero poi dei religiosi nei singoli conventi si potrà accennare ancora più tardi. Certo che occorre constatare che appunto ad una struttura territoriale capillare e complessivamente imponente corrisponde spesso per alcuni ordini, specialmente in alcuni periodi, una entità numerica scarsamente rilevante. Ecco, all'impianto territoriale rappresentato dalle province si sovrappone nel secolo XV la struttura congregazionale. Credo che appunto non importi forse chiarire come si articola la struttura congregazionale, ovviamente è diversa a seconda dei diversi ordini religiosi, assume delle caratteristiche particolari, per esempio in Italia per quello che riguarda la congregazione benedettina di Santa Giustina, magari poi se qualcuno crede si potrà approfondire, ecco, ma sostanzialmente il concetto della congregazione è appunto quella di unificare più conventi e di avere una struttura territoriale specifica e poi degli organi di governo centralizzati. Quindi per gli ordini mendicanti la struttura congregazionale ha caratteristiche analoghe a quelle delle province appena descritte, cioè per l'ordine francescano ha una diffusione capillare in tutte le province, appunto con strutture parallele governate da un vicario della congregazione osservante che risponde direttamente al generale dell'ordine e non al superiore provinciale locale, no? Quindi appunto l'elemento fondante strutturale della congregazione per la propagazione della riforma consiste appunto in questa autonomia che le congregazioni hanno rispetto il rispettivo governo locale e provinciale, dipendendo direttamente dal superiore generale dell'ordine ed essendo quindi favoriti nella diffusione della riforma. Magari lo sapevate tutti, comunque. Ecco. Nell'ordine agostiniano abbiamo una diffusione inizialmente circoscritta alle province centro-settentrionali, tranne il caso di Napoli, che è una delle prime congregazioni osservanti nell'ordine agostiniano, e successivamente, verso la fine del secolo, di mano in mano che appunto l'osservanza si diffonde, viene a istituirsi anche nell'Abruzzo e nella Calabria. Quindi anche nell'ordine agostiniano abbiamo un'articolazione in congregazioni che è abbastanza vasta, pur non raggiungendo numericamente la capillarità dell'organizzazione francescana, cioè abbiamo alla fine del secolo 8 congregazioni su 13 province, mentre nell'ordine domenicano esiste una sola congregazione osservante, quella lombarda, che si scinderà successivamente in congregazioni minori con appunto degli interventi politici ben specifici che indicano come questa struttura sia una struttura a cui gli stati sono estremamente interessati per motivi politico-economici che dopo magari si cercherà di almeno di esemplificare. Sì, anche in questo caso avevo fatto una piccola carta che però appunto potrà mostrare soltanto indicativamente la diffusione delle osservanze. Qui si tratta delle osservanze domenicane, cioè delle osservanze degli ordini mendicanti rapportate qui alla Carta d'Italia al 1454, la suddivisione degli stati nella pace di Lodi. Queste sono le osservanze degli ordini mendicanti, il cerchietto blu, che è quello più diffuso, corrisponde alle osservanze francescane, poi abbiamo quelle, quelle agostiniane, anch'esse come vedete abbastanza diffuse, soprattutto a partire dall'Italia settentrionale, ma scendendo anche successivamente nell'Italia meridionale, poi abbiamo le osservanze domenicane fino all'inizio del XVI secolo, insomma. Ecco. Mentre invece, sì, capisco che no, cioè, magari può girare. I colori a che cosa corrispondono? Quello blu al francescano, quello verde all'agostiniano e quello arancione al domenicano. Sì, non ho messo le altre osservanze dei serviti e dei carmelitani che sono tutte settentrionali, cioè si formano, si costituiscono nell'ambito mantovano, quella dei carmelitani, e nell'ambito veneto, quella dei serviti. Sì, mentre invece appunto qua erano le osservanze dei principali ordini ma forse si vede poco, ma insomma, dei principali ordini benedettini e canonicali. Anche in questo caso, come vedete, il punto di partenza dell'osservanza e anche di irradiazione poi della riforma avviene sempre in ambito lombardo, veneto e toscano, con irradiazioni in particolare nell'Emilia, eccetera. Ma su questo magari tornerò. Allora, ritornando a, appunto alla, alla struttura, ecco, della, dell'osservanza, cioè a questa struttura congregazionale che è il punto, diciamo, istituzionale da cui parte l'osservanza, alla sua diffusione nei singoli conventi, ecco, dobbiamo dire che si diffonde appunto con una la diffusione dei singoli conventi avviene ovviamente nello stesso ambito geografico delle congregazioni. Naturalmente quindi sono concentrate maggiormente nell'area centro-settentrionale per gli ordini mendicanti, come si è detto, e hanno e raggiungono un numero notevole di conventi. Secondo le statistiche appunto che possediamo all'inizio del secolo XVI sappiamo che i conventi francescani osservanti sono circa 544 all'inizio del secolo XVI e giungono quasi ad uguagliare, certamente però con molte nuove fondazioni, i vecchi istituti che non hanno aderito alla riforma. Sì, alla fine del 400, all'inizio del 500, adesso mi sono accorta che non ho preso i dati dei conventi non riformati, ma sono ancora circa nell'ordine del 400-500, e mentre i conventi osservanti francescani sono ben 544, quindi ciò significa che, a parte quelli passati dalla forma del conventualismo all'osservanza, sono moltissime le nuove fondazioni. mentre gli osservanti agostiniani possiedono intorno alla metà del secolo XVI 179 conventi, meno della metà di quelli non riformati, quindi nell'ordine agostiniano l'osservanza si impone assai più lentamente che non nell'ordine francescano, almeno all'inizio del secolo XVI. Ecco, e forse ancora per ritornare sul problema della diffusione dell'osservanza, vi accorgerete che alla fine ho puntato soprattutto su questo, magari è solo un'idea ma ripetuta, insomma. E la diffusione dell'osservanza nell'ambito geografico degli stati centro-settentrionali, si può vedere anche la diffusione della congregazione della congregazione di Santa Giustina, che è quella segnata in rosso, e delle due congregazioni canonicali riformate, che sono quella dei canonici lateranensi di Fregionaia di Lucca e quella più ristretta come ambito geografico dei canonici lateranensi di San Salvatore e Santa Maria di Reno di Bologna. Come vedete, anche in questo caso le due osservanze che partono appunto più o meno alla medesima data, ai primi anni del secolo XV, hanno una irradiazione che è abbastanza omogenea, mentre appunto la congregazione cassinese, che assorbirà prevalentemente i conventi dell'Italia centro-settentrionale, giungerà poi più tardi anche a riunire tutti i conventi del centro, come Monte Cassino, e infatti nel Cinquecento non avrà più il nome di congregazione di Santa Giustina ma di congregazione cassinese, l'impianto appunto iniziale è quello di una diffusione nell'area centro-settentrionale. Ugualmente appunto i canonici di Santa Maria di Fregionaia, che avranno un'importanza notevole nella diffusione della riforma nell'ambito delle congregazioni canonicali, si diffondono prevalentemente appunto nella zona toscana e lombarda, toscana, emiliana, lombarda. Allora, come reagiscono gli stati e i principi di fronte alla struttura congregazionale che viene a rompere un equilibrio ormai instaurato con le vecchie circoscrizioni degli ordini mendicanti, normalmente controllate tramite l'elezione di superiori principali provinciali gradite all'autorità politica? Questo è il problema, cioè devo fare un punto interrogativo. La congregazione osservante si esprime infatti, specie all'inizio del suo sviluppo e specialmente, come si è detto, nell'ordine domenicano, come una circoscrizione territoriale che supera largamente l'ambito regionale e comprende conventi ugualmente importanti situati in stati diversi. Ciò comporta inevitabilmente tensioni politiche che si esprimono soprattutto nell'ordine domenicano, nel tentativo da parte dei principi di creare congregazioni a misura del loro Stato. È noto il fallito tentativo di Borso d'Este nel 1469 di separare i conventi ferraresi dalla congregazione lombarda e più tardi l'analogo tentativo, questa volta riuscito, del Savonarola, che dopo difficili e lunghe trattative appoggiate dalla Signoria e osteggiate dal Re di Napoli portarono alla nuova ma effimera congregazione di San Marco. Dopo la morte del Savonarola, infatti, San Marco non sarà più congregazione indipendente, si unirà con quella toscana, eccetera. Quindi avrà una evoluzione che di nuovo sfugge al controllo diretto di un singolo Stato. Nella stessa direzione si muovono i principi e le città più importanti che promuovono, specie in ambito benedettino, congregazioni più circoscritte e quindi facilmente controllabili in ambito, controllabili in ambito locale. Particolarmente significativa per esprimere questa tendenza è la Congregazione Cistercense di San Bernardo, eretta nel 1497 per iniziativa di Ludovico il Moro, con l'intento di raggruppare i conventi cistercensi della Lombardia e della Toscana. La bolla istitutiva della nuova congregazione, emanata da Alessandro VI, prevedeva la congregazione del capitolo annuale, costituito dal superiore e da un discreto per ogni monastero, e l'elezione di un definitorio, costituito di 9 membri che governava la comunità, e di altre norme simili a quelle che reggevano la congregazione di Santa Giustina. Poco dopo, tuttavia, la bolla veniva revocata per disaccordo fra i monaci e successivamente riformulata da Giulio II con precise clausole che garantivano l'alternanza dei luoghi dove tenere il capitolo, cioè una volta si doveva celebrare in Lombardia, una volta si doveva celebrare in Toscana, e anche l'alternanza delle presidenze. E ugualmente prevedeva un'uguale rappresentanza di toscani e di lombardi nella congregazione. Quindi appunto mi pare che questo esempio sia molto pregnante per indicare appunto tutto il valore anche politico-sociale annesso a queste cose, queste congregazioni. E nella stessa direzione si era mossa alcuni anni prima, cioè nel 1474, la Repubblica di Venezia, promuovendo il distacco di Camaldoli dai monasteri veneti di quest'ordine, che si riunivano in una congregazione con il nome di San Michele di Murano. Questo raggruppamento non ebbe però vita molto duratura, perché più tardi, soprattutto per impulso di Paolo Giustiniani e di Leone X, si ricollegherà all'ordine camaldolese, che diventerà appunto poi riformato. Esempio analogo si ha anche nell'ordine vallombrosano, quindi la costituzione anche in questo caso di una congregazione locale, anche in questo caso toscana, che successivamente nei primi del Cinquecento verrà riunita all'ordine, anche sotto la spinta appunto di un fenomeno analogo che si verifica poi nel corso del XVI secolo, dove la struttura congregazionale verrà o definitivamente sancita, come nell'ordine francescano, con la presenza di due ordini paralleli, cioè con la scissione in realtà dell'ordine e la presenza di due ordini paralleli, oppure verrà riassorbita, come nell'ordine domenicano, dove si avrà una ristrutturazione territoriale dell'ordine stesso in province, ma dove tutte le province saranno riformate. Ecco, quindi nell'ordine domenicano la struttura congregazionale scompare perché avrà assorbito tutti i conventi, anche se gradualmente. Ecco, comunque appunto lo scopo della congregazione nel corso del secolo XVI viene a essere superata dal fatto che l'osservanza è già stata raggiunta nei vari ordini, oppure si è sancita una divisione, insomma. Ma appunto altri sono gli esempi di congregazioni locali nel corso del 400, sorte spesso per iniziativa appunto delle autorità politiche locali, con lo scopo prevalentemente di controllare i conventi dell'ambito regionale, e che più tardi, anche sotto la spinta di quel movimento poi all'unità che sarà accelerato senza dubbio nel corso del secolo XVI dalla riforma, queste congregazioni più piccole confluiranno nuovamente nell'ordine. Questo altro esempio che vi volevo appunto presentare era quello della congregazione della Cervara in Liguria, che comprendeva monasteri genovesi, milanesi e parmensi, e giungeva anche a comprendere San Fruttuoso di Capodimonte, che appunto costituisce un altro esempio della flessibilità che la struttura congregazionale poteva consentire nel promuovere la riforma, partendo spesso da realtà locali più facilmente controllabili e confluendo poi in realtà più ampie per esigenze dell'unità dell'ordine, ma sempre con un controllo politico. In questo caso specifico sarà appunto il Podestà di Genova che concederà alla Congregazione della Cervara di confluire in Santa Giustina. Ancora tempo? Sì, non c'è nessun problema. Allora, abbiamo finora citato due esempi che riguardano l'ordine benedettino. Nel campo dei benedettini si impone, come abbiamo visto in Italia, la Congregazione di Santa Giustina di Padova, che, come abbiamo detto, muovendosi inizialmente su un ambito settentrionale, finirà successivamente per raggiungere anche i maggiori monasteri dell'Italia centrale, prenderà il nome di Cassinese. Per quanto riguarda la riforma dei monasteri benedettini, a parte i casi che abbiamo ora citato, bisogna però dire che l'adesione delle città e dei principi è assai più circoscritta che non riguardo agli ordini mendicanti. Ovviamente vi è un problema di tipo fondamentale che riguarda controllo economico dei beni ecclesiastici, che nei monasteri benedettini sono ancora notevolmente più estesi, più ampi, che non nei monasteri degli ordini mendicanti, almeno per quanto se ne sa. E questo esempio è chiarissimo, appunto, se si guarda la diffusione e l'appoggio dato alle congregazioni osservanti. La struttura congregazionale di Santa Giustina, infatti, introduce l'abbaziato annuale ed elimina la commenda. E questo strumento era troppo diffuso presso i principi, presso gli stati cittadini, per potervi rinunciare. In questi giorni, e poi è noto, insomma, sono già stati illustrati i vantaggi e gli usi della commenda, e quindi appunto i vantaggi politici che non solo la curia ma anche i principi territoriali avevano dalla distribuzione delle commende. Anche in stati come quelli di Federico da Montefeltro, dove le osservanze sono promosse con grande alacrità, si mostra deferenza verso la congregazione benedettina di Santa Giustina. Si riconosce che è una congregazione spirituale, Federico chiede l'aggregazione ai beni spirituali della congregazione di Santa Giustina, ma non gli assegna neppure un monastero, insomma, cioè i monasteri benedettini resteranno in mano ai commendatari, cioè appunto a persone, per lo più appunto designate dal principe, che possono costituire un controllo diretto sui beni o a cui il principe appunto affida la commenda come riconoscimento dei propri servizi, della propria lealtà politica, eccetera. Quindi ancora il caso di Venezia è interessante. Nel 1430 Venezia nominava una commissione per la revisione, la riparazione, la provvigione delle chiese, dei monasteri e delle abbazie, e questa commissione di fatto era divenuto un ufficio per la distribuzione delle commende, e i commissari in genere appunto svolgevano questo compito di così distribuire. Quindi certamente con questo sistema e con questo impianto era assai più difficile la diffusione della osservanza nell'ordine benedettino, e quindi la congregazione di Santa Giustina sì, ha notevoli adesioni, perché appunto non rimane circoscritta, ma anche delle forti resistenze. Bisogna però notare che verso la fine del secolo si riscontra, sulla scia appunto probabilmente anche delle altre osservanze, si riscontra un uso della commenda da parte di famosi cardinali che adesso vi cito, che non è soltanto di sfruttamento ma anche di promozione della vita religiosa. Si possono citare i casi appunto di Ascanio Sforza, di Giuliano della Rovere e più tardi di Giovanni de' Medici, che pur usufruendo delle dei beni delle commende, in questi casi citati, di Sant'Ambrogio di Milano e di Santo Stefano di Bologna, si preoccupano però della introduzione della vita religiosa in questi monasteri, chiamando delle congregazioni osservanti e stabilendo appunto delle regole per la divisione della mensa del commendatario dalla mensa abbaziale, in modo da garantire appunto la vita religiosa dei monaci e la loro sopravvivenza, ma anche insomma tutte le rendite possibili. Ecco, e dopo questa carrellata sui centri di diffusione della riforma e su una delle strutture fondamentali, la congregazione, sull'appoggio fornito ad essa dalle autorità cittadine o principesche, occorrerebbe approfondire in che cosa consiste effettivamente la riforma, anche se non è facile rispondere a questo quesito, soprattutto per quello che riguarda l'effettivo riscontro dell'applicazione di queste riforme che vengono appunto diffuse. Certamente la riforma consiste in un maggiore rigore morale, in una vita religiosa più intensa, ovviamente le regole sono poi diverse a seconda di ogni congregazione, la rinuncia alla proprietà personale e per alcuni conventi anche alla proprietà del convento, in modo particolare per i francescani osservanti, e nell'introduzione della vita comune. Altri aspetti collaterali della riforma sono la diminuzione dei privilegi e dei privilegi negli ordini monastici maschili legati a coloro che possiedono titoli dottorali e anche la diminuzione della licenza extra standi, cioè una riforma che diminuisce la mobilità, ecco, dei religiosi nei conventi e che invece per i monasteri femminili si trasforma sempre di più nella osservanza della clausura. Questi elementi, quelli cioè relativi alla proprietà, quelli relativi alla clausura, sono gli elementi fondamentali della riforma a cui si annette la maggiore importanza per ristabilire da un lato la disciplina monastica, dall'altra per ristabilire un controllo sulle proprietà ecclesiastiche. Ecco, tutti questi sono problemi che andrebbero ovviamente ancora di più approfonditi e magari forse nella discussione è possibile parlare di alcune di queste cose. Insomma, mi pareva che quanto detto finora si possa far emergere che la riforma dei conventi, qui non ho parlato appunto della riforma dei conventi femminili, ma è noto che la riforma dei conventi femminili fra 4 e 500 parte prevalentemente dagli stati, dalle richieste degli stati e delle magistrature cittadine. Addirittura si costituiscono delle magistrature cittadine per la riforma dei conventi e le stesse magistrature cittadine avranno una grossa influenza nel condizionare anche la riforma tridentina, quindi anche quella che ci appare la riforma ecclesiale per eccellenza, la riforma tridentina, è in realtà un compromesso con le esigenze politiche e sociali degli stati. Insomma. La riforma dei conventi, quindi, per concludere, è un grosso strumento di riorganizzazione dello Stato, gestito diplomaticamente o direttamente, vedi la riforma dei monasteri femminili, che da un lato promuove una vita religiosa più profonda, ma che anche la frena nella misura in cui riforme radicali come quelle promosse per i monasteri femminili, promosse appunto prima del Tridentino per i monasteri femminili, possono turbare l'equilibrio socio-economico della società, che trova appunto nei monasteri un elemento insostituibile della concezione patriarcale e patrimoniale della famiglia. Questo per quanto riguarda i monasteri femminili, ma credo in larga misura anche per quelli maschili. E chi più ne sa, più ne metta. il maschile, perché occorrerebbe, credo, anche fare, almeno io non conosco, delle indagini di tipo anche un po' sociale proprio per quello che riguarda i monaci, ecco, presenti nei diversi monasteri, attraverso le liste di professione, attraverso i necrologi, eccetera, però come questo si sta facendo per i monasteri femminili, comunque è molto più facile, è più chiaramente individuabile la destinazione, diciamo, al convento delle donne, non si è verificato perlomeno, ecco, da parte maschile una cosa. Non avrei altro da dire. Dopo questa ultima discussione la riprendiamo dopo. Facciamo il solito intervallo allora, un quarto d'ora. Titolini o Chitolini, Vitolo e Cassese, no? Tre iscrizioni. Spero che abbiano anche le risposte. No, io ho ascoltato con grandissimo interesse, perché come tutti sappiamo è un argomento su cui mancano delle illustrazioni generali e di quadro, e quindi direi è la prima di conoscenza, sistemazione di una materia su cui ci sono magari dei contributi particolari, ma non ancora la possibilità di avere un'idea complessiva del fenomeno, e questo direi è stato molto uno degli aspetti più interessanti della relazione, così come il fatto di avere messo l'accento su alcuni spunti e su alcuni elementi oggettivi mi pare che sono suscettibili di approfondimento in direzioni, credo, molto più fonde. Ecco, io mi limito ad alcune osservazioni che sono domande. Una cosa che non sono mai riuscito bene a capire, ti dicevo prima, perché i conventuali sono cattivi? Perché gli osservanti, va bene, vogliono riformare. Se poi vediamo la vita dei quello che sappiamo, quei testi che ha pubblicato il Piana, per esempio, sulle controversie, non si ha l'impressione che la cattiva vita fosse da una parte e la buona vita fosse dall'altra parte. Cioè il punto non è soltanto genericamente la riforma religiosa, è un tipo particolare di riforma religiosa. Io credo che rispetto alle esigenze di riforma, facendo un paragone che storicamente non sta in piedi, ma se un conventuale del XIV, del XV secolo fosse vissuto secondo i principi del conventualismo, avrebbe per esempio risposto in pieno a quelle esigenze di riforma che si erano manifestate nell'undicesimo e dodicesimo secolo, cioè quel tipo di vita che fra undicesimo e dodicesimo andava bene, tra 3-400 non va più bene, a parte gli abusi indubbi, abusi dei conventuali, cioè è tutto di una cosa. Un altro aspetto che è collegato a questo primo, il non favore dei principi alle riforme all'interno degli ordini benedettini, diciamo. E sono d'accordo anch'io che un elemento è, gli elementi che hai citato sono importanti, cioè la minore disponibilità di commende, il fatto che la proprietà ecclesiastica sfugge al controllo indiretto, eccetera. Ecco, c'è forse quest'altro elemento che spiega, e del resto non è una cosa nuova, insomma, il fatto che appunto gli ordini verso cui si indirizza l'attenzione dei principi sono quelli che svolgono un'attività religiosa più congeniale alle esigenze religiose della gente, insomma, per cui il problema religioso diventa immediatamente un problema anche di vita politica e di ordine pubblico. Certo, no? Quindi per le forme devozionali, per le iniziative caritative. No, non è un caso che gli ordini osservanti si buttano in direzione della, attraverso la predicazione, naturalmente, riforme di ospedaliere, creazione di monti di pietà, tutte cose che i benedettini comunque non devono fare e non fanno. Certo, allora certo. È qui che si vede come per il Duca, proprio per la sua, per il Duca o per uno Stato, certo, nella sua quotidiana attività di governo è essenziale intervenire, naturalmente, ecco, con un rapporto, con l'osservanza che è generalmente direi senz'altro di favore, anche se segnato da questi scontri che ci sono molto spesso, per cui quel predicatore sì, quell'altro no, quell'altro è vigliacco, eccetera. Sì, insomma, il predicatore è questa, qua adesso c'è Rusconi, quindi non dico niente, ma mi colpisce anche, vediamo solo la storia politica del Ducato di Milano, non so quando il principe impone una tassa e una decima magari a metà col Papa e la riscossione va male, cosa si dice? Mandiamo tre predicatori. E i predicatori dicono fidatevi pure di noi, che nel giro di alcune settimane il referendario dice siamo arrivati a quota 2500 fiorini. Insomma, è proprio questo strumento estremamente duttile proprio per lui e quindi ovviamente l'interesse del principe per l'osservante. Ecco, no, queste erano le cose che poi riguardano appunto in sostanza il problema di qual è quel complesso di ambiente sociale, di aspirazione, di modelli di vita religiosa in cui si colloca il movimento dell'osservanza. Poi ci sono alcune piccole osservazioni, per esempio i commendatari e le riforme dei monasteri. D'accordo, i commendatari sono stati spesso sottovalutati in realtà. Quella funzione istituzionale della commenda forse in certi casi l'hanno adempiuta, insomma, a parte tutti gli abusi. Ecco, nel caso di Sant'Ambrogio di Milano, che tu hai citato, mi veniva di ricordare che la pressione per la riforma è esercitata sul commendatario dal Papa nel momento stesso del conferimento della commenda. È come un patto, cioè ti do la commenda, però tu darai una certa parte delle rendite ai monaci e introdurrai. Quindi c'è questo gioco che il Papa non... Forse è meglio che continui io, perché in sostanza volevo dire quello che ci ha detto Chittonini al secondo punto del suo intervento. In realtà avevo pensato la stessa cosa, cioè pensavo che la diversità di atteggiamento dei principi nei riguardi dei benedettini appunto muovesse dalle considerazioni che faceva Chittonini. Vorrei soltanto aggiungere una cosa, cioè richiamare il carattere più tipicamente urbano degli insediamenti appunto mendicanti rispetto a quelli benedettini. Abbiamo condotto indipendentemente l'uno dall'altro una ricerca per la Puglia, io e Pellegrini, e siamo arrivati così alle stesse conclusioni, cioè a partire dalla metà del XIII secolo la diffusione degli insediamenti mendicanti, francescani in particolare, va di pari passo con il formarsi di insediamenti più grandi. Cioè anche in Puglia abbiamo una riorganizzazione territoriale del basso medioevo con la scomparsa dei piccoli insediamenti rurali e il formarsi di grossi borghi. E questo processo è accompagnato dalla crisi del monachesimo benedettino e dal consolidarsi della presenza degli ordini mendicanti. Quindi allora un movimento come quello dell'osservanza, coinvolgendo tutti gli aspetti sociali che diceva Chittonini, confraternite, ospedali e soprattutto coinvolgendo di più l'ambiente urbano, era un fenomeno che non poteva non attirare di più l'attenzione dei principi rispetto al monachesimo benedettino, che in questo periodo diciamo, anche se non è in crisi, effettivamente è ripresa la congregazione di Santa Giustina, che poi si estende anche al sud, anche Cava entra a far parte di questa congregazione, è effettivamente espressione di una rinascita, però chiaramente l'incidenza del monachesimo benedettino sulla religiosità dei laici è senz'altro in questo periodo un fenomeno minoritario. Se si pensa a quello che il monachesimo benedettino aveva rappresentato nell'alto medioevo, al sud senz'altro ancora per tutto il XII secolo, per quanto riguarda anche l'assistenza religiosa alle popolazioni, per quanto riguarda anche la richiesta dei laici di essere inseriti nei necrologi dei monasteri benedettini, e si pensa anche al fatto che il culto dei morti comportava una distribuzione di elemosina ai poveri di grandi dimensioni. Cluny, il monastero di Cluny spendeva somme enormi per la distribuzione di elemosine legate al culto dei morti, legate alla memoria dei defunti. Ora chiaramente tutto questo nel basso medioevo non c'è più, il monachesimo benedettino incide di meno, insomma. Mentre invece gli ordini mendicanti sono più radicati nelle realtà urbane e quindi senz'altro rappresentano un fenomeno che non può non attirare di più l'attenzione delle magistrature cittadine e quindi anche dei principi. Quindi allora, concludendo, sono d'accordo con te quando dici che i principi potevano essere interessati di più ad avere disponibilità di commente, di avere la disponibilità, di avere maggiore controllo sui singoli monasteri benedettini, ostacolando la loro unione, però penso che sia da tenere presente anche quest'altro aspetto, cioè i mendicanti erano più radicati nella realtà urbana, svolgevano un ruolo più incisivo anche nella, se vogliamo dire, anche nella mediazione del consenso, quindi non potevano non essere oggetto di un'attenzione più vigile da parte dei principi, i quali così non avevano problemi se una congregazione benedettina si usciva fuori dai confini del loro territorio, insomma, ecco, però per quanto riguarda i mendicanti potevano essere più sensibili. Sì, io vi ringrazio per queste integrazioni che avete fatto e sono completamente d'accordo sia per quello che riguarda appunto l'osservazione riguardo ai monasteri benedettini, sia l'osservazione che faceva Giorgio sia la tua. Certamente c'è anche da considerare che la loro funzione è ormai molto diversa e svuotata in parte, insomma. Peraltro molto spesso la commenda viene data di monasteri ormai privi di monaci e in taluni casi si vede c'è invece una rimissione dove nelle città, insomma comunque dove è necessario, della vita religiosa. Molto spesso la commenda appunto comporta anche uno svuotamento proprio anche della popolazione monastica. E anche molto importante appunto quello che Giorgio richiamava rispetto alla funzione degli ordini mendicanti poi nella città, sia per quello che riguarda le opere assistenziali, sia per quello che riguarda il problema della persuasione e della funzione esercitata attraverso la predicazione e altri mezzi in favore dello Stato. La prima domanda è appunto una cosa a cui non saprei rispondere perfettamente, anzi abbastanza poco, però se posso fare l'esempio degli ordini femminili, che probabilmente è un po' diverso rispetto a quelli maschili, mi pare, credo di poter dire alcune cose, cioè è vero che i monasteri conventuali erano probabilmente più cattivi, cioè erano erano dei luoghi spesso descritti non soltanto appunto nella novellistica ma anche in documenti ufficiali come luoghi di così dove perlomeno c'era maggiore libertà che non in casa. Ecco, questo a che cosa è dovuto? Io credo sostanzialmente alla mancanza di una direzione di questi luoghi, cioè all'assoluta mancanza di una vigilanza da parte dell'autorità religiosa, perché i monasteri femminili sono in massima parte a questa data soggetti all'autorità episcopale, non sono molti quelli soggetti ai singoli ordini religiosi. Ecco, per l'ordine domenicano ne abbiamo un elenco, quelli che vi ho detto prima erano 50 soggetti all'ordine domenicano, ma tanti di più erano nelle singole città. Quindi in parte questa mancanza di una direzione di un governo poteva consentire una maggiore intromissione, ecco, degli abusi. Il passaggio all'osservanza di questi ordini monastici femminili comporta una aggregazione all'ordine religioso che quasi sempre è anche un'aggregazione di direzione, non soltanto spirituale, ma anche amministrativa, governativa, insomma, del convento. E questo soprattutto nella fase di passaggio fra XIV e XV secolo. Dopo il Tridentino l'operazione sarà inversa, cioè ci sarà quasi sempre il tentativo di esclusione degli ordini religiosi dal governo dei monasteri, quando ormai l'autorità episcopale sarà saldamente organizzata e insediata nella diocesi. A partire dal Tridentino in avanti, per gli ordini femminili ci sarà questo progressivo tentativo di togliere ai monasteri maschili il governo dei conventi, continuando ovviamente sempre a portare avanti alcune considerazioni che sembrano di tipo un pochino pretestuoso, cioè si dice i conventi che dipendono dai monasteri maschili dipendono da forestieri, noi le nostre donne vogliamo governarle, quindi devono passare attraverso il vescovo. Io credo che questa assenza, mancanza, insomma, di un governo, di una direzione specifica possa essere uno dei motivi di questa abusi da un lato o di tentativi di introdurre un governo specifico, un responsabile specifico alla guida di questi luoghi religiosi. Non so se ho risposto. Non era la domanda. Io vorrei fare una domanda di carattere sulla terminologia, c'è la differenza tra congregazioni e ordini, e fermo restante che io non sono così molto conoscitore del periodo pre-Tridentino, so che dopo il Tridentino, come anche Alzari sottolineava, tutti i monasteri, tutti i conventi o i religiosi sono sorti, si sono chiamati congregazioni, no? Mi chiedo perché anche poi alcuni ordini, pur essendosi riformati, hanno continuato ad avere il termine ordine come indicato. Ecco, se questo è possibile capire di più, perché rimane per alcuni la parola ordine e poi nasce invece la congregazione, tutti sono congregazioni. Mi pare che la congregazione abbia sì una rinuncia, ponga una rinuncia ai beni personali, ma soprattutto rinuncia all'uso dei beni personali, mentre invece l'ordine ha una rinuncia per sempre ai beni personali. E mi pare che questo, non lo so, non ho studiato, ripeto, questo problema, ma mi pare che si voleva anche, per un problema di benefici, spingere con gli ordini a non lasciare meglio l'abito simonacale, perché una volta che si abbandonava l'ordine, ecco, si rinunciava per sempre, anche da parte, mi pare, dell'autorità ecclesiastica, lui si imponeva anche la rinuncia, quindi anche in eventuale stato laicale, la rinuncia ai beni personali, mi pare. Ecco, questo è un problema che mi sembrava da sottolineare e da chiedere anche conferma. Mi ponevo il problema del perché in queste riforme, se è possibile avere una maggiore chiarificazione. Si sente già quello che poi nel Cinquecento sarà molto forte, l'esigenza di una riforma. Ecco, tutti sappiamo che esiste una, anche il professor Prodi l'ha messo nel suo articolo, anche nel suo saggio praticamente, anche Iedin sottolinea che esiste una riforma prima della stessa riforma protestante all'interno. Possiamo questo dire già il momento della riforma cattolica? E poi mi chiedo, perché in alcuni ordini l'osservanza si afferma, in altri no? Perché a Napoli l'ordine degli agostiniani prende piede, e io ricordo le due grosse personalità, il Giro dell'Interno, questo Tripano che gira negli anni 30-40 a tutta l'Europa, almeno il Belgio, la Spagna, la Francia, per queste cose, è piena di matti. Allora, a che cosa è dovuto? Alle personalità che c'erano all'interno di questi ordini o ad altri? Mi fermo qui perché poi alcune cose non le chiederò dopo. Dico subito che ad alcune cose non posso rispondere, certo sono interrogativi appunto che anch'io ho posto in ordine proprio alla geografia della diffusione degli ordini degli ordini riformati. Quindi a quest'ultima domanda io non ho una risposta oggi, insomma. Ecco, posso solo dire appunto che gli studi finora fatti dimostrano come nel regno di Napoli fino alla Sicilia, eccetera, l'osservanza entri molto tardi e partendo sì da Napoli, ma raggiungendo altri luoghi soltanto in un tempo molto più lento rispetto ai periodi precedenti, e anche in questo caso tuttavia sempre con l'appoggio e quantomeno l'appoggio, l'iniziativa della chiamata, l'appoggio materiale nella costituzione del luogo eccetera di principi locali e di duchi eccetera, insomma, no? Quindi è un problema che credo va studiato localmente, a cui adesso io non so dare risposta. Quanto alle riforme, se queste riforme siano delle riforme cattoliche, penso di sì, certamente sì, però dilatando il termine appunto all'infinito, nel senso che ogni secolo più o meno ci sono riforme di questo tipo. Ecco, quindi probabilmente quel concetto storiografico di riforma cattolica va un pochino rivisto, ecco. Certo rientra come logicamente rivisto oppure come sì, in tutti i casi direi, ma qui ci sono persone che No, l'impostazione di questo seminario tenderebbe proprio ad una revisione non solo cronologica del termine, insomma. Però vorrei chiedere soprattutto se è il perché in questo periodo, forse mi mancano gli elementi per. Sì, certo. Beh, insomma, chiaramente alcune cose possono credo venire fuori proprio anche dal periodo in cui iniziano queste osservanze. Lì, se volessimo ritrovare ripescare il vecchio concetto di autoriforma, probabilmente ci starebbe bene, nel senso che queste riforme iniziali nascono proprio nel periodo della fine del papato avignonese e nel periodo dello scisma, quindi in un momento di crisi probabilmente delle istituzioni, e però appunto hanno origine in luoghi e stati molto sensibili a questi problemi. Pensate soltanto appunto alle origini della riforma dei canonici secolari e di Santa Giustina da Padova, che nasce a Venezia nei primi del 400 con l'apporto di personaggi così molto conosciuti, Correr, Barbo, Condulmer, cioè personaggi che poi raggiungeranno anche il papato e saranno essi stessi promotori della riforma. Quindi in questo caso, cioè nell'inizio della riforma, in questo caso specifico ed in alcuni altri analoghi, c'è ovviamente anche la sensibilità religiosa e l'impegno di persone che appunto promuovono questo tipo di osservanza e raggiunti anche vertici più alti cercano di darne un'estensione ancora più ampia, ma c'è ugualmente appunto credo la presenza e la sensibilità di un ceto, diciamo, di persone che hanno questa sensibilità spirituale e anche però sono vissuti in una appunto in un luogo particolare che è la Repubblica Veneziana, con le sue tradizioni sia religiose sia civiche particolari. Gli altri punti appunto di partenza di queste riforme li ho indicate nella Toscana, quindi certamente c'è una convergenza anche in questo caso di sensibilità religiose che partono da delle esperienze anche locali e però anche di capacità di assumere queste sensibilità religiose e di strutturarle sul piano istituzionale, diffonderle, insomma. Non so se ho risposto alla domanda. Ah, quanto al problema di congregazione e ordine, la congregazione è in genere appunto un raggruppamento più ristretto, con delle forme di governo di tipo diverso rispetto a quelle dell'ordine, e in genere almeno queste congregazioni che siamo venuti esaminando, che sorgono fra 4 e 500, hanno una, appunto un'ampiezza, un'ampiezza minore dell'ordine stesso, e tendono a appunto sostituirsi, a scomparire quando si possono riunire, cioè nel caso per esempio appunto dei domenicani, quando si ricongiungono all'ordine, ecco, l'ordine le riassorbe e ricostituisce la sua struttura precedente, ecco, non c'è un cambiamento istituzionale, cioè si ripropone la ristrutturazione in provincia con un agganciamento interno, ecco. Sì, però volevo chiedere, perché non sono cioè dopo il Concilio di Trento ordini non istituzioni, sono congregazioni. Sì, ma quello no, è solo quello. Ma no, chiedevo, per esempio, i gesuiti sono congregazioni. Sì, ma i benedettini sono un ordine, i cistercensi sono un ordine. Sì, sì, sono sorti prima. Sì, certo. Sì, va bene, ma c'è la nuova istituzione. C'è la distinzione fra l'ordine con voti solenni, sì, e la congregazione con voti semplici e eterni. Eterni sempre. La ringrazio che mi ha aiutato. Il problema è proprio questo, infatti, anche quando nasceranno quelli che noi chiamiamo appunto i chierici regolari, i gesuiti sono proprio particolari perché sì, hanno voti solenni, ecco, ma sono una società e non sono nemmeno una congregazione. Sì, sono molto particolari, infatti, però ecco, i chierici regolari appunto non avranno voti solenni, non saranno obbligati alla clausura. Il problema era che il voto solenne comportava anche, forse parlo solo del femminile, ma insomma comportava anche la clausura, ecco, per la parte femminile. Sì, certo. Un professo, solennemente professo, non poteva più sposare. Per esempio, era un impedimento dirimens. Certo. Il matrimonio di un religioso appartenente a una congregazione, quando si sposava, il matrimonio non era non valido, ma soltanto illicito. Sì, ha ragione, è vero. Ecco, comunque appunto sì, la distinzione fondamentale consiste sostanzialmente in questo che il professore mi ha suggerito, appunto, e che sul momento non ricordavo, proprio questo aspetto della distinzione dei voti solenni o semplici. Sì. Ma c'è anche un motivo, chiedo questo. No, però per questo tipo di congregazioni, ecco appunto, il problema era diverso. La dignità del tempo della congregazione, adesso bisogna dire che sono due cose diverse. Quindi si usa la stessa parola chiaramente per due cose diverse, anche se il termine è sussunto. Adesso non conosco studi di diritto canonico su questo, quindi al momento da dove viene da approfondire sul piano del diritto canonico. Da dove viene? Quando viene usato per la prima volta. L'ordine Cluny è ancora un ordine, è una congregazione. A mio parere si trova, per la prima volta si trova la parola congregazione nella Benedettina del 1336. Quando poi si in formava, come? Poi in Vallombrosa o sì, quando si formava fra tutti i miei monasteri benedettini, si formava delle congregazioni nelle diocesi o anche nelle province ecclesiastiche. Ecco, cioè più o meno è quello che appunto volevo dire io, è questa divisione territoriale anche nell'ordine benedettino che porta alla costituzione di congregazioni, che sono poi quindi raggruppamenti più circoscritti con una loro direzione centralizzata che di solito non esisteva nell'ordine benedettino. Ecco, quindi la sono cose molto diverse. Cioè, secondo me c'è una certa ambiguità in questi termini ed è necessario chiarirli nella loro genesi. Ecco, una congregazione all'inizio è una comunità, quindi ogni convento forma una congregazione. Il termine congregazione si usa nell'arte medievale anche per indicare una confraternitas. Quindi congregatio, confraternitas sono la stessa cosa, cioè comunità di chierici, comunità di monaci, comunità di comunità anche di laici. Successivamente il termine congregazione viene usato in un significato più ampio, cioè come insieme di monasteri, come confederazione di monasteri, con un significato completamente diverso da ordo. L'ordo significa norma, significa regola, quindi c'è l'ordo cluniacensis, cioè le norme di vita seguite a Cluny, come c'è un ordo cavensis, che significa non ordine congregazione, ma significa regola di vita che si segue nel monastero di Cava. Quindi allora c'è un ordine benedettino che significa regola benedettina, ma l'ordine benedettino non è una istituzione non esiste l'ordine benedettino. Nel diritto non esiste. Non esiste nel diritto, quindi ordine benedettino significa norma seguita dai monaci benedettini. Quindi allora ci possono essere diverse congregazioni all'interno dell'ordine benedettino. Quindi all'interno dell'ordine benedettino attualmente in Italia c'è la congregazione cassinese, che è la continuazione della congregazione di Santa Giustina, e la congregazione sublacense, ma sempre all'interno dell'ordine benedettino. Invece questo termine ordine acquista un significato completamente diverso con i mendicanti. Quindi i domenicani, ad esempio, sono un ordine, nel senso che seguono la regola di San Domenico, ma sono anche collegati tra di loro in una istituzione ben precisa, che non ha, ripeto, la corrispondenza dei benedettini, dove ordine benedettino significa soltanto norma, regola, ma non una istituzione. Ordo vite. Ecco, sì, d'accordo, sembra che sia appunto molto utile presente questa, il significato originario di queste parole, appunto per evitare confusione. Sì, ti ringrazio, però quando negli ordini benedettini si istituiscono le congregazioni, queste si istituiscono appunto con questo criterio territoriale di struttura centralizzata corrispondente agli ordini mendicanti. Non sono esperto, sì, ma anche nella nostra epoca, cioè nel secondo 400, la parola congregatio ha due aspetti diversi. Certo. Uno è quello assunto da lei, cioè di unione delle unità riformate all'interno di un ordo. L'altra invece, e questo è probabilmente interessante, cioè è il nascere invece di congregazioni di chierici, barnabiti, sì, al termine ultimo della nostra cosa, o con voti altre semplici, cose, certo, ecco, con voti semplici, e questa è un'altra cosa. Tipo di non è però appunto senza senso, e quindi probabilmente questo è un problema, io non ho visto però trattazioni su questo, il collegamento tra queste cose. Non un collegamento diretto, giuridico, canonico, ma il fatto che in questa epoca, certo, si senta, sì, il bisogno di una moltiplicazione di associazioni con voti semplici, eccetera, che marciano per conto loro. Certo, il problema, io questo credo, fondamentale è proprio diverse, quello della maggiore mobilità. Cioè nell'alto medioevo questi temi hanno un significato diverso, bisogna storicizzare. No, vi ringrazio di avermi aiutato a chiarire questa cosa, ecco, sì, io probabilmente. Mi sembra però che Nadi abbia anche molta ragione. E ci illumina, cioè quando, perché dicevo che con il Concilio di Trento non sono più nati ordini, mi sembra adesso sia chiaro, no? Perché forse si è voluto centralizzare la cosa, perché le province dipendono dall'ordine, dal superiore generale, che è più vicino alla Puglia, eccetera, eccetera. Quindi nasce dal Concilio di Trento anche un modo di gestire le congregazioni, diciamo così, di ordine religioso. Certo. Ecco perché mi sembra che il Concilio di Trento si chiamino tutti congregazioni. Mi sembra, quindi ci metto tanto sì, quelle nuove, di nuove istituzioni. Sì. Di nuove istituzioni però, rimanendo i vecchi ordini, col termine ordine. Si mi fermi che poi dopo. Chiedo in tedesco, sono soltanto domande semplici e presidente Vantoschka farà una giornata. Okay? Grazie. Temo, soltanto tre. Die erste, Herr Caspar Elm hat einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben über Florenz und die Mendikanten. Und hat gezeigt, dass es praktisch eine Reformmode gibt oder eine Mode in der alten Vorgesehe zugunsten eines oder eines anderen Ordens. Das heißt, zuerst werden die Franziskaner mehr bevorzugt, Beispiel Santa Croce, danach die Franziskaner, Santa Maria Novella, und dann die Augustiner-Eremiten, Santo Spirito, mit einer Form des Frühhumanismus. Und jetzt habe ich einfach die Frage, inwieweit gibt es auch bei den in anderen größeren Orten, wo jeder dieser Orden einen Konvent hat, eine wechselnde Einstellung zugunsten verschiedener Orden, die dann also unterschiedlich stark vom Bürgertum unterstützt, finanziert, ausgestattet werden. Diverse ordini che poi vengono preferiti con cambiamenti, una volta questo ordine, una volta è più di moda di favorire l'altro ordine, eccetera, come è stato provato a Firenze, se questo succede anche. La seconda domanda Die neuen Orden, zum Beispiel die Minimi des Francesco da Paola, sind ja in gewisser Weise dann wieder eine Reform der Observanz. Wer unterstützt jetzt, gibt es jetzt wieder einen neuen Drang im Bürgertum, etwa diese neue Kongregation zu unterstützen, nella borghesia di aiutare questi novissimi, questi minimi, che sono una specie di riforma dell'osservanza. Sì. La terza domanda betrifft jetzt einen Orden, der noch nicht genannt wurde, aber für Italien meines Erachtens gerade in unserer Zeit auch wichtig. Un ordine che non è stato nominato, ma che è molto auch importante per l'Italia. Dass seit dem späten 15. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert gerade viele Fürsten, rabiate Fürsten, vielleicht zur Abdeckung ihres Seelenheils, eine Kartause gründen, sodass das 15. Jahrhundert ja die größte Blütezeit des Kartäuserordens darstellt, in Pavia, in Parma, in Rom und woanders. Der Ordine del Kartäuser, wie heißt es offiziell? Certosini. Sodass hier die Gegenseite ist, eine sehr strenge Ausrichtung, abgewandt von der Welt, aber gerade gefördert von den politisch stärksten Fürsten. Das wäre dann auch Come mai che i certosini vengono poi specialmente aiutati dai principi, eccetera, forse perché credono che questi che sono così severi siano poi per i loro peccati più efficienti per liberarsi. Sì, ecco, per quello che riguarda appunto gli orientamenti della borghesia o di altri strati sociali verso i diversi ordini religiosi, è un problema che appunto è stato affrontato per Firenze, ma anche per altre città, per un periodo successivo, per il Cinquecento, Modena, Lucca, eccetera. È difficile, a mio parere, dare delle regole generali del perché, dell'orientamento verso un ordine religioso piuttosto che verso un altro. Probabilmente ci sono delle situazioni anche contingenti. Ho in mente un caso bolognese che per me è esemplare, intorno alla chiesa di San Giovanni in Monte, che è la chiesa dei canonici regolari lateranensi, cioè aggregati alla congregazione di Fregionaia. Intorno a questo ordine si organizza fra la fine del 400 e l'inizio del 500 il ceto borghese più intraprendente della città, e in modo particolare in ordine alla ristrutturazione del convento che si sta compiendo in quegli anni. Questo fatto della ristrutturazione del convento, a cui partecipano appunto famiglie soprattutto di origine mercantile o della borghesia delle professioni, diventa un fatto politico estremamente importante, perché si pone a cavallo fra la caduta dei Bentivoglio e il passaggio della città allo Stato Pontificio. Qui si vede che il caso contingente, appunto, come una ristrutturazione di una chiesa, una adesione anche ad un ordine riformato che promuove un certo tipo di vita spirituale, la presenza in quel gruppo anche di persone considerate carismatiche, acquista una valenza politica importantissima proprio nel momento del passaggio dalla Signoria di Bentivoglio alla Legazione Papale, cioè questo convento diventa uno dei centri di sostegno della Legazione Papale. Certamente però è un momento contingente, particolarissimo, in cui si vede chiaramente come la Chiesa e un ordine possono influire nella vita politica cittadina in una maniera anche determinante in quel tempo, a livello appunto così, sotto vari piani, di persuasione politica, di anche raggruppamento politico di una frangia che è appunto una frangia della borghesia emergente in contrapposizione alla oligarchia dominante nel periodo precedente. Intorno a questa chiesa, intorno al fatto della sua costruzione, si organizzano appunto molti di questi problemi che sono venuti emergendo. Però questo è un fatto. Credo che non si possa stabilire una norma generale, anche se dagli studi della Peronella anche vengono fuori come ci possano essere delle tendenze di certi ceti sociali più verso chiese di un ordine che verso chiese di altri ordini. Certamente appunto io credo che per gli ordini. C'è anche il problema del terzo ordine, no? C'è anche, sì, anche questo il problema è importante. È che il legame tra gli ordini e la città ha una mediazione molto spesso, sì. Che è quella dei terzi certo. Ordini. Ovviamente sì, certi terzi ordini sono più legati agli ordini mendicanti, come si sa. Certo non in tutte le città si sviluppano allo stesso modo e intorno agli stessi ordini. Ecco. Per quello che riguarda... Certo, sì. I certosini, io credo che sia molto giusto quello che lei indicava poi come possibile risposta, cioè la vita di preghiera è un elemento che non va trascurato, che ha una grande importanza anche a livello pubblico, cioè effettivamente anche le città e i principi assegnano una grande importanza agli ordini religiosi, soprattutto riformati, soprattutto di quelli di disciplina rigida, una grande importanza, chiamiamola così, sociale, cioè proprio per la preghiera in difesa della città. Sono numerose le testimonianze che assegnano appunto a questi rigidi ordini come i certosini o alle monache più osservanti questo compito specifico di pregare per la conservazione della città. E era già stato rilevato molto spesso anche i luoghi stessi di costruzione all'interno della città per quello che riguarda i monasteri femminili, soprattutto nel momento della fondazione. I luoghi spesso sulle mura hanno anche questa funzione, assumono questa funzione di protezione della città stessa, a parte motivi specifici per cui magari sono stati scelti anche per l'isolamento, però viene loro assegnato questo compito di preghiera in funzione di protezione della città. Altra domanda era i minimi, sì. Su questo non saprei dire esattamente in Italia, perché la diffusione dei minimi in Italia non è molto... Sì, in Italia nel 400 i minimi sono proprio molto circoscritti, sarà più tardi, però sì, occorrerebbe probabilmente uno studio più specifico sulla diffusione, ma nel 400 sono ancora molto... Ecco, non so, a me venivano in mente invece altri ordini, altri gruppi che possono essere assimilabili ai minimi in Italia, cioè i Gerolami Miti di San Pietro. Ecco, questi effettivamente si ha l'impressione che siano appunto proprio sostenuti più dai ceti mercantili, dai ceti borghesi, almeno come adesione al gruppo. Però poi di fatto sono... anche in questo caso stati territoriali, principi eccetera, che danno loro il luogo per l'impiantazione e la diffusione, quindi anche in questo caso c'è comunque una convergenza di appoggio da parte degli stati territoriali. L'ultima domanda di questo round e poi dopo facciamo l'intervallo per i problemi pratici. Si chiama? Che alla quale mi pare se dice il suo nome così è ecco. Varesto. Mi pare alla quale la discussione sta rispondendo. Io ringrazio la professoressa Santali e anche gli altri intervenuti. Proprio mi pare che l'assunto di questa giornata, di questa mattina, sia il ravvisare i motivi e i meccanismi di fondazioni, di congregazioni di osservanza che stanno soprattutto dalla parte delle città, delle magistrature cittadine e dei principi, laddove la storiografia finora ha dato più rilievo, diciamo, ai motivi che stanno all'origine delle fondazioni dell'osservanza, cioè nei fondatori, nei loro motivi, nelle loro regole, statuti e così. Io chiederei che si approfondisse ancora di più, anche con gli esempi e altri che sono stati portati, proprio questa ricostruzione di queste motivazioni ambientali per il favore che è stato riservato alle congregazioni di osservanza. Tenendo presente anche, come mi pare sia stato anche notato, che non sono necessariamente in contraddizione, cioè le città e i principi riprendono spessissime volte i motivi dei fondatori delle congregazioni e i motivi religiosi. Ecco, e mi interessa molto questo scoprire anche gli altri motivi di tipo sociale, politico. Lei ad esempio accennava prima all'interesse che hanno il principe e le magistrature cittadine per conventi disciplinati, ad esempio, nelle loro città, oppure all'interesse che hanno gli stati per la coincidenza dei confini delle congregazioni con i confini del loro Stato, così. Ecco, mi sembrano cose molto interessanti. E lei ultimamente diceva anche, parlava proprio dei minimi sostenuti dai centri mercantili e borghesi. Ecco, tutte queste cose, se fossero sempre più messe a fuoco nella discussione, a me interesserebbe molto, e comunque ringrazio. Allora, su questo ritorniamo dopo, mi pare che sia una cosa su cui ritornare poi nella seconda parte. Allora, ein halbe Stunde Pause. Ja, bitte oben. Raufgehen. Wenn Sie interessiert sind. Alle, die gehen, wollen, sollen raufgehen. Dato il problema della riforma cattolica, se questi debbano essere dei fenomeni che attesterebbero l'esistenza della cosiddetta riforma cattolica prima della dell'Augenspalt. Io penso che è un po' come il problema del Rinascimento, sia se il Rinascimento carolingio, il Rinascimento del XII secolo, eccetera, eccetera, la riforma cattolica può diventare un concetto del genere. Quello che può favorire una errata prospettiva di questo genere è effettivamente, emergeva da quanto Lazzari ci esponeva, il tipo di studi e di documentazione cui prevalentemente si è fatto ricorso, sia studi, ricerche molto erudite nell'ambito dell'erudizione ecclesiastica e preoccupate di seguire all'interno dei singoli ordini, c'è una fortissima compartimentalizzazione, si procede a compartimenti stagni da ordine a ordine, ma poi negli ordini all'interno di ogni singola l'osservanza da un lato e conventuali dall'altro, ecco, che va alla ricerca all'interno dei singoli ordini di questo movimento finalistico, teleologico, sia saldando il movimento di osservanza che ha le sue radici nella fine del Trecento con l'evoluzione storica complessiva. E allora effettivamente si suggerisce questo tipo di prospettiva, ma sono anche ricerche basate su che tipo di fonti? In realtà unicamente sulle fonti interne agli ordini o da loro prodotte, a vari livelli, dagli statuti generali a, non so, ai provvedimenti e ai rapporti con la Santa Sede, che sono in genere prospettive di carattere nemmeno nazionale, ma assolutamente generali. Ora, a me sembra che proprio dalla discussione invece che è stata fatta dopo, dalle domande e soprattutto dalle risposte, emerga un diverso tipo di prospettiva, ma anche un diverso tipo di studi e un diverso tipo di problematica. Cioè, il problema di considerare il complesso degli ordini religiosi nell'Italia tardo medievale usando un altro criterio, che è quello di analizzare delle unità territoriali o regionali, ma anche, e cittadine per certi versi, ma anche regionali laddove sia significativo, e nel fare questo utilizzare un altro tipo di fonti a questo punto, e sono le fonti delle magistrature cittadine, sono le fonti degli atti privati, sono tutte queste fonti diciamo che non rientrano certo nei bollari pontifici o nelle raccolte di statuti e consuetudini, e dalle quali emerge una realtà estremamente più articolata, che dà ragione di tutta una serie di quesiti e di problemi. Una realtà molto articolata in che senso? Nel senso che si ha l'impressione, di nuovo anche in questo ambito, di essere in presenza di una molto equilibrata e complessa dialettica del corpo istituzionale e del corpo sociale, che tra l'altro comprende nel suo ambito, torniamo al problema delle strutture, sia le istituzioni che le credenze, vale a dire, faccio un esempio per farmi capire, il problema nuovi ordini, nuovi conventi, ma anche un dislocarsi reciproco di ceti più o meno emergenti o tradizionali, ma non solo di ceti ma anche di gruppi. Si è ricordato l'aspetto di determinati gruppi che fanno capo alla riedificazione di un monastero, di un convento maschile, o nella fondazione di conventi femminili, o di liste di attese, di attesa per entrare in determinati monasteri femminili da parte di talune famiglie. Cioè, diciamo, quindi un universo complessivo che emerge solo da un'analisi che però sia condotta da questo punto di vista. Ecco, allora io ho l'impressione da questo punto di vista cambino le prospettive. Cioè, la storiografia tradizionale tende a presentare il problema del numero complessivo, è stato ricordato, no, qua, degli insediamenti, è estremamente significativo vedere dove avvengono le nuove fondazioni, chi appoggia le nuove fondazioni, o dove ci sono delle sostituzioni tra un gruppo osservante e uno conventuale, chi favorisce questo tipo di sostituzione. Ecco, io ho l'impressione, adesso io non voglio usare queste grandi categorie, ceti borghesi emergenti, poi rischiano di non essere significative, ma il problema è veramente, in questa Italia tardo medievale, di ricondurre a questa grande compattezza io penso soprattutto allo Stato cittadino, allo Stato cittadino regionale, a questa grande compattezza del tessuto complessivo. Un'unica chiosa che a questo punto però è a livello di domanda o di suggestione, è questo. È abbastanza interessante, qui torniamo di nuovo però alla individuazione non generica di gruppi, è abbastanza interessante constatare che i gruppi di riforma, quelli che saranno i protagonisti della riforma istituzionale nell'ambito delle istituzioni romane negli inizi del Cinquecento, fanno comunque capo, oltre che ad alcune aree geografiche molto specifiche, in genere fanno capo a centri riformati degli ordini antichi. Ecco, questo è un polo dialettico che varrebbe la pena di sottolineare. Io penso al caso di questi grossi esponenti della gerarchia ecclesiastica che escono dal patriziato veneto, per i quali il filtro verso il riformismo religioso avviene in istituzioni monastiche riformate, mentre i ceti cittadini e signorili che si appoggiano agli ordini mendicanti tradizionali invece rimangono attestati su una posizione di utilizzazione funzionale, per esempio del Ministero Pastorale, il discorso che faceva Chittorini di chiamare questi predicatori erano efficaci a raccogliere le decime, è vero, poi c'è tutta una questione che si portavano via anche le chiavi del portiere, per cui le cose diventavano più oscure. Ecco, però altri ceti, altri gruppi, adesso qui è tutto molto sfumato, che invece si appoggiano alle istituzioni mendicanti, che sono quelle più attive nel processo e di proposta religiosa e di integrazione sociale complessiva, rispetto a questi movimenti di riforma religiosa del secolo successivo, appaiono del tutto attardati. Ti ringrazio, non credo di avere nulla da aggiungere, anch'io avevo in mente questi problemi. Noch zwei Punkte. Und den ersten hatte ich schon mit Senior Osconi unter vier Augen diskutiert. Ich möchte ihn aber vielleicht noch einmal öffentlich machen. Ich hatte nach dem semi-religiösen Frauenbewegung befragt, also nach den Beginen, die sich ja sehr stark verbreiten im späten Mittelalter. In Flandern, im Elsass, in Westfalen, in Mitteldeutschland, in Böhmen. Und da ist meine Frage, ob sie bis nach Italien vorgedrungen sind, ob sie als Teil einer Reformbewegung begriffen wurden, ob sie bekämpft oder verbrannt wurden, oder ob es gar nichts dergleichen gibt. Se ci sono questi movimenti che c'erano in Fiandre, è un problema grosso, in effetti. Se sono venuti, se sono stati combattuti, se sono stati bruciati o se sono stati considerati parte di un movimento riformatore. Ma è un problema di cui si occupano poche persone, mi risulta, in Italia. C'è la Romana Guarnieri, che è molto affezionata a questa idea che anche in Italia vi fossero gruppi del genere, le beghine o le bizocche, soprattutto collegate, mi pare che lei dica, ai terzi ordini, in qualche modo si collegano. In Italia non esistono, esistono raramente appunto delle comunità religiose femminili non strutturate. Quando si collegano ai terzi ordini, in alcuni casi però, almeno a quanto lei scrive, conducono una forma di vita abbastanza simile a quella delle beghine. In effetti abbiamo nel XV secolo una certa ricchezza di queste esperienze di donne che vivono insieme e un aumento dei terzi ordini, ma col Concilio di Trento tutto questo scompare, cioè vengono vietati tutti appunto i gruppi. Ecco, poi dopo il Concilio di Trento vi sarà anche una sorveglianza molto più stretta dal punto di vista anche delle idee religiose rispetto a questi ordini, per cui in effetti una repressione religiosa rispetto a gruppi femminili l'abbiamo più dopo il Concilio di Trento che prima, non mi risulta, ecco, prima. No, scusa, non so se tu conosci. No, a me pare questo, cioè, correggimi se mi sbaglio, in Italia la capacità di assimilazione da parte degli ordini riformati di questi movimenti femminili è molto alta. Cioè esistono queste forme di, diciamo così, aspirazione a una vita religiosa di questo tipo è l'esempio di Santa Caterina da Bologna, certo, se vogliamo anche, dire. Certo. Cioè, ma prestissimo si istituzionalizzano all'interno di un ordine, cioè non hanno una consistenza proprio per quello che conosco io, insomma. Cioè un gruppo di donne si mettono insieme ma subito si inseriscono all'interno di una congregazione, con il terzo ordine o istituendo un vero monastero. All'inizio del Cinquecento però incominciano nuove forme, no? Come quella della Merici, cioè le Orsoline, insomma, ecco. Le Orsoline o le Angeliche, che sarebbero su questa posizione, cioè gruppi organizzati e che vivono in comunità, ma senza la clausura, per dedicarsi appunto a una vita più attiva, no? Ma anche questi hanno pochi anni di vita, appunto perché il Concilio di Trento ordina la clausura. Per le Orsoline resterà un caso un po' particolare, perché almeno nella diocesi di Milano viene conservato un certo tipo di apostolato in casa, però non vivono in comunità, vivono in casa. Ecco. E legato poi a questo problema ci sarebbe anche appunto l'altro grande problema della diffusione della devozione moderna in Italia, di cui si era parlato proprio anche a proposito di Caterina De Vigri. Non si sono ancora trovati dei tramiti, delle vie precise. L'unico gruppo che mi parrebbe forse in qualche modo richiamare la spiritualità della devozione moderna e potrebbe costituire un tramite è proprio quello dei canonici regolari di Fregionaia, di cui avevamo parlato, perché in alcune operette spirituali di canonici della fine del 400 si può riscontrare una spiritualità abbastanza vicina a quella della Devozio, e c'è anche una certa, diciamo, una certa larghezza di contatti con ambienti non esclusivamente italiani ma anche europei, soprattutto a Bologna attraverso lo studio, eccetera. Quindi è possibile che certi tramiti fossero presenti, ecco, ma non mi risulta, ecco, che sì, non ha un rilievo, non mi pare. In Italia non sono movimenti che hanno un rilievo come in Germania, insomma, ecco, sono istituzionalizzate, presenze singole, ma subito istituzionalizzate all'interno del, mi sembra. Ich glaube, das ist doch ein großer Unterschied. Ja, Sie haben recht, ja, das glaube ich schon. Mich würde interessieren, welche Rolle die Bischöfe bei der Förderung oder Verhinderung der Ausweitung der Observanz bilden, weil die Bischöfe ja doch, wenn es sich um Benediktinerklöster handelt oder Regularkanoniker, tangiert sind. Eine Kongregation hält sich ja nicht an die Diözesangrenzen und strebt nach Exemption. Den Fall etwa, dass Ludovico Barbo dann Bischof von Treviso wird, gibt es in Deutschland nicht. Also dass ein reformierter Benediktiner dann Bischof wird, das also kommt nicht vor. In Deutschland ist es eher so, dass die Bischöfe am wenigsten für die Reform tun können. Wo sie es tun, tun sie es in der Regel in ihrer Eigenschaft als Herr des Hochstiftes. Sie können also an anderen Stellen sozusagen nicht mit den weltlichen Territorialherren konkurrieren. Insofern haben sie also sind sie in etwa ein Opfer der Verbindung Fürsten, Observanz, Papst. Also die Bischöfe bleiben da weitestgehend heraus. Und würde mich interessieren, ob in Italien mehrere solcher Observanten Bischöfe geworden sind oder ob sie überhaupt also da sehr stark. Sì, anche qui ovviamente le situazioni locali saranno diverse. Comunque perlomeno ci sono due casi abbastanza significativi che riguardano proprio due figure che hanno favorito molto l'introduzione della riforma dei monasteri osservanti nel primo 400. E sono il caso di Bologna, Niccolò Albergati, il quale appunto in collegamento con il Barbo e con Santa Giustina, anche come ambiente appunto in partenza della riforma, ha introdotto, ha favorito molto le osservanze, e così Ferrara con il Tavelli. Non a caso tutti e due questi vescovi sono essi stessi religiosi di congregazioni riformate, quindi hanno diffuso ampiamente la riforma. Poi ecco, le situazioni probabilmente sono diverse da luogo a luogo. Nel periodo successivo mi pare appunto che l'iniziativa venga piuttosto dallo Stato, dai principi, e che le figure dei vescovi siano più assenti, insomma, ecco. Anzi, verstanden. Il problema è delle esenzioni, cioè il Mare Magnum capita in mezzo a questo nostro periodo, certo. No? Cos'è, 1473? 1474. 1474? Di modo, negli anni 70, insomma, ecco. No, lo so. 74. Ecco, cosa significa questo, insomma, ecco, cioè sì, certo, evidentemente il problema dell'esenzione ha radice in tutti i vecchi che non sappiamo. Adesso, in questo periodo, che tipo di posizione? Ce lo dirà Rusconi, perché ha una grande, credo, influenza, almeno dall'idea che mi sono fatta, soprattutto su due aspetti. il problema, cioè relativo alla conflittualità con i sacerdoti secolari, in modo particolare in ordine al problema delle confessioni, al problema delle, dei funerali, insomma, cioè soprattutto diventa un problema di funerali, ma credo anche e soprattutto di confessioni, perché ottengono talmente tanti privilegi di confessare da tutti i peccati del mondo, uno si fa l'idea che quelli peccassero moltissimo, perché insomma tra le indulgenze e queste ecco, a questo proposito sì, volevo veramente richiamare la vostra attenzione su un testo che sicuramente conoscerete, che avevo fotocopiato per portare, ma è molto interessante. È il Casabovius, che è un testo dei primi del Cinquecento, 1525, che riassume tematicamente tutte le esenzioni dei regolari. Ah, se non lo conoscete dovete vederlo, perché è anche peraltro interessante come consultazione, ma soprattutto enumera tutte le indulgenze che hanno gli ordini mendicanti, sia rivolte al proprio ordine, no? Quindi indulgenze che possono acquistarsi solo loro per i loro peccatacci, ma anche tutte quelle in ordine ai secolari, quindi le facoltà di assolvere per esempio da moltissimi peccati riservati, le indulgenze. Ora tutto questo credo che sia un problema in quel periodo molto importante, come appunto potere di attrazione da parte degli ordini mendicanti, e quindi non soltanto i funerali ma anche le confessioni si vengono soprattutto a concentrare intorno agli ordini mendicanti, e questo crea effettivamente dei problemi di conflittualità. Per quello che riguarda la quarta funeraria, appunto, saranno risolti sul piano giuridico da Leone X, e quindi smetteranno di litigare. Insomma, mi pare che si mettano d'accordo sul fatto che pagano il parroco e poi possono anche seppellirsi nelle chiese conventuali, ecco, ma almeno dal punto di vista giuridico la questione è risolta. Il problema delle indulgenze è... No, sì, la mia domanda era questa, in relazione proprio ai quesiti che ci eravamo posti, che io un po' proposto il primo giorno nell'introduzione, cioè questo nuovo sviluppo delle esenzioni, ecco, e sulla via della costruzione, io dicevo chiesa territoriale, dicendo, insomma, di una doppia strada in qualche modo verso le chiese territoriali. Ecco. Da una parte ci sono le ridefinizioni dei confini delle diocesi, il controllo della nomina episcopale, come ha dimostrato Chitolini, eccetera, e tu hai visto Perubini e compagnia. Dall'altra anche la costruzione di una linea in qualche modo parallela, di una seconda chiesa in qualche modo, o di un'organizzazione regolare, certo, parallela, ecco, e che è anche questa, cioè che risente anche questa di questo accordo di vertice, diciamo, tra il papato e i principi, e che attraverso le esenzioni porta a una nuova ristrutturazione che si incanala poi nelle congregazioni, nelle chiamate degli ordini di nuova fondazione, ma che in qualche modo la mia domanda è riconducibile questa appunto a questo sviluppo istituzionale di ordine più generale? Sì, io penso di sì, soprattutto nel momento in cui si ricostituisce però una vita religiosa che ha più poli, perché mi pare che in fondo fino a questa data la vita religiosa ha un unico polo, che è quello appunto degli ordini mendicanti, eccetera. Quando ci sarà anche il polo trainante del vescovo, e ecco, questo probabilmente ha più... Cioè in quest'epoca probabilmente il polo trainante è questo, sì, non no, si può, certo, tentare un confronto, ecco, se io penso soprattutto però agli ordini mendicanti, il problema è diverso. Sì, beh, ma infatti... Allora, rispetto al momento di genesi degli ordini, mendicanti, effettivamente il sistema di esenzione di cui godono scardina i tentativi di riforma che risalgono ancora prima al Concilio IV del Laterano di creare un tessuto parrocchiale compatto. Se ci sono tutti questi sinodi precedenti in Laterano, c'è tutta una serie di sinodi, soprattutto del sud della Francia, dove più urgente era il problema della presenza dell'eresia catara, dove cioè, la tendenza sinodale è di costruire un territorio parrocchiale compattissimo. Le esenzioni pontificie scardinano il tessuto, ma questo però già registra grosse differenze, per esempio tra Francia da una parte, Italia da un'altra, Gran Bretagna da un'altra, ossia dipende anche dal tipo di episcopato. Io ho l'impressione che laddove c'è un episcopato di formazione parigina, sostanzialmente ai due lati della Manica, allora c'è un'attività riformatrice sinodale e l'avvento dei mendicanti avviene più immediatamente. Se passiamo invece, facciamo un salto, alla seconda metà del 400, allora questi adattamenti del sistema delle esenzioni, che riguarda peraltro ormai l'ambito liturgico e sacramentale, o parasacramentale in maniera decisa, forse svolge una funzione non più di disgregazione, ma di nuovo di riaggregazione di gruppi, ossia ripropone funzioni religiose, creando una situazione di nuovo più coesa, no? Ossia moltiplica i servizi religiosi, che però non sono più alternativi, ecco, come ipotesi. Paralleli sì? Sì, ma è il parallelo a niente. Sì, cioè... Ecco, il problema grosso è questo, il parallelo a niente. Cioè il parallelo la struttura parrocchiale da punto, ossia l'integrazione dal fatto che la struttura parrocchiale non risponde a questi bisogni. Sì, in quel momento, certo. Sì, sì. Mentre prima era effettivamente, ossia la controversia relativa alla confessione nel corso del 200 è una controversia estremamente virulenta, perché c'era una forte attività di amministrazione della confessione da parte del clero curato, soprattutto per esempio in Francia. E il problema non si pone in questi termini nell'Italia del secondo 400, per esempio, perché non c'è più amministrazione o quasi, ma poi questo però domani. Ein Problem mit der noch zusammengezählten Organisation und reformierte Klöster. Wie verhalten sich etwa die Benediktinerreformen zur Inkorporation von Pfarreien? In Deutschland ist, soweit ich sehe, das nicht ganz einheitlich. Also Klöster, die als reformiert gelten, sogar auch Kartäuserklöster, inkorporieren Pfarreien. Und damit dagegen gehen ja die Bischöfe an, sie wollen das Visitationsrecht für diese inkorporierten Vereine zumindest haben, wenn sie es schon nicht für die Klöster bekommen. Gibt es da sozusagen selbst auferlegte Beschränkung dieser Reformkongregation, dass sie darauf verzichten, Vereine zu inkorporieren? Incorporazione delle parrocchie proibite nelle nuove congregazioni o no? Che rapporti con... Perché in Germania facevano molte incorporazioni e i vescovi poi protestavano perché volevano, se già non potevano visitare i conventi, volevano almeno visitare le parrocchie. Sì, non sono moltissime, però nei monasteri femminili ci sono alcuni monasteri eretti in parrocchiali, in quelli maschili non ho mai... Ecco, comunque il diritto di visita c'è in tutti i casi. Più forte perché... No, il professore non l'ha sentita. Lei ha parlato così piano. Ho detto, io non, per quello che riguarda i monasteri femminili, so che molti monasteri sono anche appunto parrocchie, ma dei conventi maschili non so se esercitano anche, se hanno una giurisdizione parrocchiale. In ogni caso il diritto di visita del vescovo esiste e viene mantenuto dopo il Tridentino, quindi si ha la visita del vescovo nelle chiese anche monastiche che siano parrocchie. Dopo il Tridentino? dopo il Trientino. Certo, prima ci sono delle grosse. Sai, prima non visitavano, secondo me, o visitavano poco. Quando visita quattrocentesca si trova spesso magari il priore di Emilio Agostiniani e la congregazione mortariense, che il vescovo va via a visitare, non gli permette. Sì, certo. Sì, è certamente più rigidamente osservato. Si accettano e fanno visitare il sacramento, insomma. Sì, io ho visto una visita pastorale di Salerno all'inizio del Cinquecento, e il vescovo visita tutte le parrocchie, anche una che dipende dal monastero di Cava, che godeva dell'esenzione, cioè a volte dipende anche dalle situazioni particolari. Cioè nella città di Salerno il vescovo viene accettato anche nella chiesa parrocchiale monastica, e invece fuori della città non più. Sono situazioni così. Sì, certamente credo che ci sia una forte resistenza comunque a questo, soprattutto nelle chiese abbaziali, certamente. Però la rivendicazione dei privilegi è sempre molto forte, prima del Tridentino, sì, certo. No, col Tridentino viene fuori che la lotta per esempio sul responsabile della cura d'anime, cioè la lamentela del periodo Tridentino è che nelle parrocchie affidate ai regolari il responsabile varia troppo, cambia, non ha la figura fissa del parroco, ecco, quindi c'è da una parte il problema della visita, dall'altra il problema di ottenere dai religiosi la delega della cura d'anime a persone fisse, non soggette alle variazioni degli uomini. Questo è un problema credo più tardo, ecco, quindi. Sì, ma questo più problema anche le chiese parrocchiali monastiche, la cura delle anime si cerca di affidarla a secolari. Ecco, l'impiego diretto dei monaci, almeno al sud, è fatto. Qui è proprio diversissimo, credo, tra mendicanti e benedettini. No, sì, ma il problema è un diverso. O se sono unite, no? Bisogna vedere la forma canonica di controllo. Cioè può essere. Tante volte una chiesa di cui il monastero e il convento hanno il diritto di presentazione del rettore. Ecco, certo, questo è il problema. Patronato. Se è una chiesa dipendente da un monastero e l'abate ha diritto di presentazione, anche dopo il Tridentino prosegue la controversia con il vescovo sul diritto di nomina e sul diritto di anche di esame da parte del vescovo, del parroco nominato. Sì, c'è una grossa resistenza anche in Italia a mantenere questi privilegi, sì, certo. Però ecco, col Tridentino in genere si arriva ad una maggiore controllo da parte vescovile. Anche la congregazione dei regolari in genere risponde a favore del vescovo in tanti casi. Abschließend noch an etwas. Die letzte Frage. Die letzte Frage ist etwas boshaft. È un po' cattiva una domanda cattiva. Jetzt so viel von Reformbewegungen in den Alpen und in den Bettelorden gehört und von Observanzen und Kongregationen. Dass sich also fast ein Eindruck aufdrängt, Italien wäre das Vorbild. C'è quasi l'impressione che l'Italia sia stato l'esempio di tutta la cristianità, perché c'erano tanti movimenti di riforme nelle deshalb die Frage, gibt es Möglichkeiten, die Effizienz der Reform dieser Bewegung zu kontrollieren? Kann man feststellen, ob sie was controllare l'efficienza di questa riforma? Se sono riuscite. O alles beim Alten geblieben ist. O se è rimasto tutto come prima. O se tutto è rimasto come prima. Posso dire del caso di una congregazione osservante che ho conosciuto meglio, che è quella dei canonici regolari, per l'appunto. Direi che per un secolo. Non so poi come si regolavano privatamente, ecco, ma per un secolo almeno continua ad avere una grossa funzione a livello religioso, spirituale, e gode anche fama di congregazione osservante. Questo per un secolo. Poi anche in questo caso si verificano anche all'interno dell'ordine stesso delle forti critiche sulla mancanza di sull'allontanamento, ecco, da questa regola. Questa congregazione è piccola in rapporto agli ordini mendicanti, controlla 60 conventi, quindi è anche possibile che ci sia stata effettivamente anche una maggiore coesione, dovuta anche alla struttura stessa della congregazione, con capitoli annuali, con cambio del priore ogni anno, sia nelle comunità locali sia al vertice. Quindi una struttura che appunto può avere anche favorito, non so, un ricambio di persone, una mobilità, una diffusione. Certo, è difficile poter dire fino a che punto. Per i miei monasteri femminili però, ecco, risulta che si danno per osservanti tanti monasteri femminili che di fatto non applicano la vita comune. Cioè applicano una forma un po' stravagante, mettono tutti i loro denari in una sola cassetta e poi li vanno a prendere col permesso della priora. Insomma, ecco, questa è la forma di vita comune che viene considerata vita osservante, ma non c'è ancora la mensa comune conventuale, la proprietà comune. Su 26 monasteri bolognesi in due solo si osserva questa pratica, però tutti vengono detti osservanti, insomma. Non so se è chiaro. Diremo che questo è molto italiano, appunto, quindi con questo concludiamo. È umano. Non attribuite tutti gli effetti sempre all'Italia, è umano. La discussione comparativa può continuare in acquita. Cioè la comparazione continua nel pomeriggio con la